24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione il via libera al nuovo patto di bilancio dell'Europa, l'ingresso della Serbia tra i paesi candidati ad entrare nell'Unione e il rapporto comunitario sulle differenze di stipendio tra uomini e donne. Cominciamo dunque da Bruxelles, dove 25 dei 27 leader europei hanno firmato il Fiscal Compact, il patto di bilancio che obbliga i Paesi membri ad inserire nella loro legislazione il principio dell'equilibrio. Le traité de stabilité et de coordination. Paradossi d'Europa. Nel giorno in cui 25 paesi firmano il nuovo trattato intergovernativo che impone il rispetto di regole di bilancio più rigorose, esplode a Bruxelles il caso Spagna. Non c'è tempo dunque per festeggiare la firma del Fiscal Compact, fortemente voluto da Angela Merkel, che in Madrid pianta la prima grana. Quiero decir que vamos. Il neo premier Mariano Rajoy ha annunciato che il deficit pubblico iberico scenderà nel 2012 al 5,8% sul PIL, rimanendo ampiamente al di sopra dell'obiettivo promesso dal predecessore Zapatero all'Unione Europea, pari al 4,4%. Non ho consultato gli altri leader e alla Commissione europea lo comunicherò ad aprile. Questa è una decisione sovrana della Spagna, ha affermato Rajoy con toni duri. Non se la sente il premier iberico a soli 20 giorni dalle importanti elezioni andaluse di andare oltre i 27 miliardi di tagli già previsti nel 2012, più della metà dei quali annunciati solo 3 mesi fa. I leader europei hanno puntato nelle conclusioni del summit anche sulla crescita, passaggio ricordato pure dal premier Monti. Il prossimo varo dei project bonds e l'accelerazione sul mercato unico sono in primo piano. La cancelliera tedesca Merkel è tornata indirettamente sulla polemica tra la Bundes anche il presidente BCE Draghi. Le azioni della BCE hanno permesso all'Europa di guadagnare tempo e i mercati appaiono più calmi, ma ora è importante evitare che la liquidità a basso costo possa portare alla formazione di una bolla speculativa, ha detto. Infine sulla Siria i 27 leader hanno annunciato nuove sanzioni mirate contro il regime di Damasco, riconoscendo il consiglio di opposizione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per la prima volta l'Italia sorpassa la Spagna nella corsa dello spread, così il premier Mario Monti dopo il vertice europeo. Fa veramente piacere che per la prima volta da 2 anni in qua il Consiglio europeo non sia stato dominato da questioni relative a una crisi finanziaria, ma che finalmente sia stato dedicato alla crescita e all'occupazione. Non ci si è limitati a definire una strategia generale, come qualche volta l'Unione europea ha fatto, ma si è dato il via a un'agenda concreta accompagnata da impegni precisi. Siamo d'accordo anzitutto che la strategia responsabile e giusta combina il consolidamento di bilancio con riforme per aumentare il potenziale di crescita e l'occupazione, con un'attenzione speciale a quelle misure che possono avere un effetto più immediato, soprattutto a favore dei giovani e dell'occupazione femminile. Siamo alla borsa. Dopo il balzo di giovedì, ieri Piazza Affari ha ancora guadagnato terreno, chiudendo col FTSE MIB in rialzo dello 0,43%. Più timide le altre piazze europee, con Francoforte e Londra negative, meno 0,3%, e Parigi che ha recuperato lo 0,1%. A Piazza Affari deboli alcuni istituti di credito, ma ieri il comparto era volato dopo la maxi iniezione di liquidità della BCE. E così UbiBanca perde l'1,2% e Intesa San Paolo l'1%. La peggiore è comunque Ansaldo, meno 2,5%. Guidano il listino invece Azimut, più 6%, in serie positiva grazie all'afflusso di fondi in gennaio. Rimbalzano il Banco Popolare, più 4,7%, e Mediaset, più 3,4%, insieme con A2A, più 2,5%, che recupera terreno dopo il passo falso di giovedì. Forte anche Fiat, più 2,3%, grazie ai buoni conti di Chrysler. Mentre sul resto del listino vola Seat Pagine Gialle, più 19%, con il mercato che scommette sul salvataggio della società. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la Grecia, i contratti credit default swap sul debito ellenico a 5 anni sono volati a livelli record, segnalando il 99% di probabilità di default sugli schermi Bloomberg. I depositi delle banche presso la BCE hanno raggiunto la cifra record di 776,9 miliardi di euro, oltre 300 miliardi in più rispetto al giorno precedente. Mercoledì gli istituti di credito europei avevano chiesto in prestito alla BCE 529 miliardi ad un tasso dell'1%. Per il momento, quindi, le banche tengono il denaro in deposito presso la BCE. E continuiamo a parlare di economia, ma torniamo in Italia, dove l'Istat ha aggiornato gli indicatori fondamentali che descrivono il rapporto tra conti pubblici e andamento dell'economia. Un paese che arranca, dove la crescita rallenta e il debito elevato, la pressione fiscale alle stelle e le famiglie spendono poco. È un ritratto noto, quello del nostro paese, ma a renderlo più impietoso è la certificazione in numeri che arriva dall'Istat. Nel 2011 si registra una netta frenata della crescita rispetto al più 1,8 del 2010. Il PIL è infatti cresciuto solo dello 0,4%, mentre si stimava almeno 1,06. Vola oltre il 120% il debito pubblico nel 2011 ai massimi da 15 anni. Migliora invece, seppur di poco, il rapporto deficit-PIL, che si attesta a 3,9 contro il 4,6 di 2 anni fa. E poi il capitolo consumi. Quelli delle famiglie sono rimasti fermi, mentre sono addirittura diminuiti gli acquisti per i generi alimentari. Una conferma che arriva anche dalla Coldiretti. Le tavole degli italiani si sono impoverite. Meno carne, verdura, frutta, persino meno latte, mentre aumenta il tempo dedicato alla spesa perché si fa più attenzione ai prezzi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La Serbia ce l'ha fatta. Dopo 2 anni di anticamera e diversi no, ottiene lo status di paese candidato ad entrare nell'Unione Europea. Il Consiglio infatti ha dato il suo via libera dopo che è stata superata anche l'ultima condizione posta dalla Romania, che aveva chiesto garanzie per la tutela di una minoranza di 30.000 persone di Valacchi che abitano in Serbia. Ora dunque Belgrado è ufficialmente candidata ad entrare nell'Unione. Domenica Russia al voto e pare scontato che Vladimir Putin tornerà per altri 6 anni alla guida del paese. 2 mandati al Cremlino, 4 da premier per l'ex uomo del KGB, i sondaggi prevedono una larga vittoria. E l'Unione Europea si alza la voce con la Siria. Come abbiamo sentito in apertura, segue con apprensione anche il quadro politico iraniano, dove le urne sono aperte per il rinnovo del Parlamento. 48 milioni di elettori chiamati ai seggi per un voto boicottato però dai partiti d'opposizione in segno di protesta contro la repressione del 2009. Anche l'alto rappresentante Catherine Ashton e più leader europei di grandi stati sono stati coinvolti dall'Italia nella vicenda dei 2 marò fermati in India dopo una sparatoria in cui sono morti 2 pescatori. È stato lo stesso premier italiano Mario Monti a dire di aver parlato del caso anche con gli interlocutori europei, dopo averlo già fatto pure col governo americano. E per quanto riguarda la vicenda giudiziaria in India, è stato rinviato al 6 marzo il dibattito sul ricorso di Roma circa la giurisdizione del caso, lo ha deciso l'Alta Corte di Kochi. Quasi il 20% in meno le donne continuano a guadagnare meno dei loro colleghi uomini, lo rivela un rapporto della Commissione europea in vista della giornata per la parità retributiva il 5 marzo. Si avvicina la festa della donna l'8 marzo, ma ancora prima cadrà un'altra giornata molto meno conosciuta ma particolarmente significativa per la condizione femminile, la giornata europea della parità contributiva il 5 marzo. È stata indetta per ricordare il principio della parità di retribuzione tra i sessi per uno stesso lavoro, sancito ormai nel 1957 e non ancora rispettato. Un nuovo rapporto pubblicato dalla Commissione europea proprio in vista del 5 marzo denuncia infatti che nel vecchio continente le donne continuano a guadagnare meno dei colleghi uomini. Per la precisione, la differenza è in media del 16,5%. Si va da un divario minimo del 2% in Polonia ad un massimo di oltre il 27% in Estonia, ma la differenza tra le retribuzioni è particolarmente alta anche in Bulgaria, Francia, Lettonia, Ungheria, Portogallo e Romania. In Italia si attesta a poco più del 5%. Il divario retributivo fra i sessi è ancora molto elevato, spiegano gli esperti di Bruxelles, con notevoli disparità tra paesi e settori d'attività. All'origine del fenomeno il solito motivo, la difficoltà per le donne a conciliare lavoro e vita privata. Molte di loro, oberate da casa, figli e parenti anziani, si vedono costrette a prendere congedi di maternità o lavorare part-time, mentre al solito mariti o compagni possono dedicarsi ad un'unica attività. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto da Raffaella Calandra. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.